9:10, Breck. 9:10, Breck. Breck sul canale 10. Hola. Ciao Gianni, Massimiliano Archimede. Poi pitagorico. E allora, cosa stai combinando? Poi mi stavo ero al computer, infatti mi fanno male anche un po' gli occhi. Allora, stavo navigando un po'. Adesso ho acceso l'apparato, però non c'è nessuno stasera. E poi ho detto, anzi, la verità ero sul 5 e sento le splatter. Beh, siamo vicini. Ma dai, già spento il computer, se no ti faccio vedere una cosa. Spento. Alla prossima. L'ho visto io, bel lavoro. Buonasera, Fabrizio, se non sbaglio, che ha preso la coda. Sì, bravo, io sono io. L'ho visto facendo una cosa e stavo ascoltando e ti ho sentito. Ciao Gianni, scusa per l'improvvisazione. No, no, l'ho visto, avevo la prima foglia, sono andato a vederlo. È un bel lavoro, ben fatto, semplice, ma un bel lavoro, bella idea, complimenti. Vabbè, guarda, non potevo più le basette, come si dice in America. Però sempre queste coccole. Quando cominci a metterci 4, 5, 6 terminali a occhiello, quello che tocca, quello che sfrigola, poi ne risentono gli apparati, i disturbi, perché poi ti creano disturbi, l'alimentatore ogni tanto se ne va in blocco, perché è normale, e poi non c'era la sicurezza assolutamente. Invece in questo modo, c'è solamente un occhiello, puoi stringerlo bene tranquillamente, lì lo lasci fisso, va al magnetotermico da 40, in modo che se c'è un corto repentino, un assorbimento anomalo, quello interviene, ho già fatto le prove, anche se sono fatti per corrente alternata, siccome l'effetto termico avviene anche in corrente, anzi ancora meglio in corrente continua, ho visto che sganciano perfettamente. Io ne ho provato uno, ho fatto i test con gli strumenti ed è a posto, perciò l'ho fatto per quello. E poi da lì ha visto quel distributore di energia che si usa per gli impianti fatti bene sul civile, ha detto c'ha 4 bar, perciò ogni modulo mi fa, posso fare 2 alimentatori e poi con la propria spia. E poi mi sono fatto quello per i servizi, 10-20 ampere, e posso sezionare, che io avendo anche bambini a casa, può capitare, non lo fanno, cioè piccolino ho visto che sommato non tocca, però è una questione di sicurezza. Io poi la notte quando spengo tutto abbasso dietro gli interruttori e anche se si va a accendere un alimentatore non succede niente, rimane tutto sezionato. Sì, sì, ma è un buon lavoro, già mi piace. Il giorno che avrò spazio giusto dove mettere le cose, la prima cosa che faccio, io ci avevo già pensato, io è proprio fare un sistema di alimentazione, come si deve, perché la cosa più importante poi è che se no sono sempre tutti questi fili buttati dietro, e un attimo a fare danno, lo puoi essere meglio di me, dai. Ok, vai. Sono tornato per dire che l'ho visto, è un bel lavoro, bella idea soprattutto, capito? Passo in ascolto che sto facendo delle cosucce. Eia, Fabrizio. Vabbè, poi lo devo completare perché devo mettere gli strumentini qua sul banco per controllare sia assorbimenti che il voltaggio, che è importante, ma quello lo farò con calma. Adesso quello che mi premeva era questo qua, perché non ne potevo più, era una cosa allucinante. Riprendila Gianni, era quello che ti volevo far vedere, l'ho pubblicato sul mio sito. Il problema è che quando si hanno molti apparati e anche molti alimentatori, come mi capita a me, e quando metti i terminali sulle boccole di alimentazione dell'alimentatore, quelle rosso-nere, io solitamente metto il filo con l'occhiello o saldato o impatto, però ne metti 2 o 3 o 4 e comincia, quell'occhiello non stringe bene, quell'altro ti sfugge, la boccola che ti rimane in mano, insomma, mille problemi. e poi sai, sempre aggancia e sgancia perché magari cambia e fai. Allora ho fatto un sistema dove l'alimentatore non lo tocco più, c'è solamente una mandata di cavi da 10 mm, poi usato il cavo di mandata proprio per non avere dispersioni, un magnetotermico sezionatore bipolare e poi un distributore di energia che si usa solitamente per gli impianti civili. E da lì c'ho tutta una serie, ci sono 15 morsetti per ogni barra, se c'ho la voglia lì a collegare. Bene, Meda. Mi piace la tua risposta, bella, sintetica e pulita. No, mi sto facendo le cuffie, Massimilia, scusa. Ehi, tranquillo, tranquillo. Non devo evitare di disturbare gli altri, io penso anche agli altri. KK. Sì, allora l'ho visto Massimiliano, non ce l'ho fatta alzarmi, sono stanco morto, già me lo vado a guardare poi. Poi non sono tornato, se puoi dire, manca mai, ho fatto un giro di banca oggi e sono riuscito. Poi non ho detto nulla, noia, in questi giorni ci stanno massacrando. Beh, sono giorni particolari. Comunque non è su Facebook, è sul mio sito, quello Radio Amatoriale, se poi ti capita. Intanto è sulla home page, tu entri, fai home e poi c'è scritto, mi pare, la dicitura. Aspetta se te lo dico che non me lo ricordo cosa ho scritto. Ho fatto ieri del lavoro, ho fatto le foto. E l'ho pubblicato direttamente. E allora, una soluzione per la distribuzione di alimentazione, clicca qui, vale, poi lo vedi, poi c'è scritto, già non c'è problema. E ti vedi il lavoro che ho fatto. Così mi dai. Questa è un'idea anche per altro, perché è sempre stato un problema di molti, quando si hanno, ripeto, molte apparecchiature o strumenti, luci, balle varie. C'è sempre il problema degli alimentatori, quello di dover poi distribuire in modo sicuro, tra virgolette equo, a tutti gli apparati. Sì, ma io non li carico più di tanto, io metto un apparato alimentatore e via, anche se ne ho uno da 50, uno da 45 ampere, un altro da 10, li divido abbastanza bene, dai, non sono carichi. Se deve fare una cosa del genere, ci vuole una stanza di alimentatori, come fai? No, io ho degli alimentatori abbastanza, ne ho uno da 50, l'altro da 60, l'altro è un 80 ampere lineare, e uno piccolino da 32 che uso per i servizi. Ma quelli lì divido tutti i carichi, ma se dovessi fare un alimentatore per apparato mi ci vuole una stanza di alimentatori, com'è? No, è un casino, è impensabile. Tu tieni conto che ci sono alcuni, io ho visto molte stazioni radioamatoriali, che si fanno preparare degli alimentatori a rack, un'unità di misura particolare che si va su un mobile standard, che hanno un centinaio di ampere, magari se ne fanno preparare due o uno in ridondanza, e con quello alimentano tutto. Ma io gli alimentatori ce li avevo già, per utilizzare che li ho messi così, ce li avevo già gli alimentatori, non è che li ho presi apposta, no, ce li avevo, punto, e allora li ho utilizzati. Anch'io ce l'ho già, cioè non avendo mai avuto neanche uno, niente di strano, significo, niente di strano che avrei optato per un unico alimentatore da grosso, però vabbè, sì, ce li ho. Ho preferito, cioè li utilizzo, poi quando se si rovineranno allora ci penserò, perché l'idea è sempre quella di prendere un unico alimentatore, anzi doppio, uno che è ridondante, grosso, almeno 100 ampere, 120, e lì li metti tutto, perché in ogni caso quando vai in trasmissione un apparato alla volta, non è che vai in trasmissione con due apparati, perciò l'assorbimento massimo di un apparato è 25-30 ampere, quelli grossi, ma stiamo già esagerando. Mettici poi tutto il resto, ma in ricezione non è che sia così esagerata poi l'assorbimento. Perciò già un alimentatore da 100 ampere ce n'è per i porci, ecco. Fai una cosa così e poi vai a distribuire l'energia a tutti gli apparati. Sì, sì, ti ho capito. Una sorta di centralina, la elettrica. Sì, più che centralina è un distributore vero e proprio, si chiama distributore di energia. Non fa altro che c'ha l'ingresso e poi c'ha tanti morsetti qua, quanti sono i moduli. Io ho preso quello che si usa per la trifase, che sono le tre fasi più il neutro, perciò sono 4 barre. Ogni barra c'ha 15 morsetti, tenendo conto che ti serve positivo e negativo, perciò sono togli l'ingresso principale e ti avanzano 14 posizioni per collegare 14 radio, per dire. Però a voglia, ci colleghi qualche radio, ci colleghi qualche luce, poi ogni modulo ne ha 2, praticamente può fare 2 alimentatori, perciò stiamo già parlando di 28 utenze a voglia. Ne ho preso 2 perché avendo praticamente sono 1, 2, 4, sono 3 alimentatori, per uno l'ho fatto doppio perché ho fatto servizi e poi ci ho collegato un apparato HF di basso assorbimento, però ho fatto un modulo per ogni alimentatore, perciò siccome un modulo ha 4 barre, perciò può fare 2 alimentatori, perciò con 2 moduli fai 4 alimentatori, perciò a voglia, stiamo parlando già di 28, 56 utenze, a voglia siamo anche esagerati, però sempre meglio essere un po' più, avere un po' più di abbondanza che non mancarti. Infatti, io l'ho costruita così la mia stazione, ho messo praticamente in ogni ripiano, ho fatto un mobile chiuso praticamente, in ogni ripiano ho messo l'apparato con l'alimentatore, il rosmetro eccetera eccetera, in ogni piano è a sé, capito? E se attacco un apparato funziona la stessa strumentazione, si attacca l'altro lo stesso e così via. Ne ho 3 di stazioni, quindi a voglia che c'è. Ah sì, no, per carità, è perfetto. No, vabbè, il discorso cambia, ripeto, avendo 2 apparati, più servizi, è un'esigenza che poi avviene, capito? È un problema. No, io ho fatto la parte più vicina, dove arrivano i cavi delle antenne, l'alimentazione delle antenne, lì ho i rosmetri piuttosto che gli accordatori, proprio, e si fermano lì. Poi da lì con le varie bretelle vanno a servire i vari apparati. Però io adesso invece di fare tanti piani, perché io ho tra virgolette il problema che c'è un dipinto in parete, infatti mia moglie mi ha chiesto di poterlo vedere, adesso è coperto per un quarto, allora devo eliminare dei piani e lo faccio lineare, mi alzo di un piano solo, cioè faccio solo un ripiano e basta, che risulta basso. Però devo aumentare l'aria, la superficie che ho sul banco. Adesso ho non so se si ricordi dalle foto, quel banco che c'è, che mi sono costruito, sono 3 metri. Adesso devo fare un angolo in modo da guadagnare quell'altro metro e mezzo, 2, in modo da poterlo ripartire, in modo da passare. Perché io praticamente ho 3 piani, abbasso l'ultimo piano e lo metto lineare giù. Che ho fatto il calcolo, mi servirebbe per mettere tutto quanto su un unico piano, mi servono almeno 5 metri di banco. Purtroppo la stanza non è così lunga, se no avrei fatto una bancata, che poi diventa difficile perché se devo andare dal primo apparato all'ultimo devi stare sempre correndo con la sedia ed è un problema. Invece la faccio a L, mi giro e ce l'ho dietro praticamente alle spalle ed è più semplice. Se lo faccio io il banco per la stazione come quello di Claudio. Ciao Massimiliano, ciao già. Ciao Giulio, ma caschi male perché anch'io ho un padre falegname, ha una falegnameria Berubi, però fa tutto, che c'ha tutto, perciò ti viene male. Io quello che mi sono fatto qua, ho preso la base di 3 scrivanie e sopra ci ho messo un bellissimo top da cucina di quelli spessi e grossi ed è lungo 3 metri, comodissimo, rotellato, riesco a spostarlo tranquillamente e con i ripiani, ma stiamo parlando di spessori importanti, anche perché il carico che c'è sopra è veramente eccessivo. Io ho usato praticamente 2 piani con da 40 a 4 cm di spessore del legno, solo perché i carichi sono veramente eccessivi. Mi sono fatto le alzatine e quant'altro e diciamo è uscito un bel lavoro, questo era quello che c'avevo anche nell'altro QTH. Infatti quando ho traslocato, siccome l'ho fatto tutto quanto in bulonato, si è potuto smontare tranquillamente e me l'hanno portato qua nella casa nuova e una sera me lo sono rimontato senza nessun problema. Ho capito. No, io gli ho mandato il piano a Claudio, intanto è abbastanza largo come profondità, è oltre 60 cm. E poi ci sono i piedi che si piegano, i piedi, e dunque il piano volendo si può anche ribaltare in caso di necessità, perché è fissato lungo la parete, è fissato, c'è la cerniera naturalmente, e tu chiudi i piedi e abbassi e metti il piano in verticale, capito? Un attimino solo che c'è mio figlio che mi sta chiedendo una cosa, un attimo, torno subito. E beh già. Danni? Gianni? Rieccomi. Ma se vede, Gianni si deve essere addormentato, perché l'ho chiamato, non ha risposto. Massimiliano. Sì, ci sono. Non pensavo che non stavo uscendo io, no, perché ho chiamato Gianni, che Gianni non hanno mai risposto, evidentemente ho fatto, ma il microfono è abbastanza alto, e pensavo che non stavo uscendo io, ho detto. Stava facendo la pennichella. Oppure un riposo diretto sino a domani mattina. Due sono le cose, visto che c'è la stazione in camera da letto. Ah, lui fa in fretta, si appoggia al cuscino e poi modula col cuscino. Ok, stavo dicendo, i piani che ho fatto a Claudio, ci sono i piedi, no? I piedi sono in metallo, però sono a tipo cerniera, si possono piegare, si possono, e poi anche il piano si abbassa e diventa, lo puoi mettere in verticale, praticamente appoggiato al muro, capito? Ho capito, no, qua è tutto quanto aperto, anche perché io ho il mobile che è scostato dietro dal muro per modo che ci possa andare per i cavi, per togliere e mettere, se no è un problema. Poi quando accendo tutto qua sprigiona un calore allucinante, è tutto aperto, arieggiato, e poi dietro c'è mezzo metro di distanza dal muro proprio perché possa passare io tranquillamente e fare tutte le operazioni che devo fare. Sai, quando devi mettere un cavo, togliere, manutenzione. Invece nell'altro QTH purtroppo avevo il problema che non c'era spazio, però ce l'avevo sempre accostato al muro. Poi quando avevo necessità, sotto il mobile c'erano 2 maniglioni proprio per poter prendere tutto il mobile e lo scostavo indietro, e Claudio l'aveva visto. E come rotelle ho usato quelle che si usano per spostare i mobili, quelle grosse, che ogni piantana mi pare che c'ha 6 rotelline, mi pare. E ne ho utilizzato, sono 2, 4, 6, 10 rotelle, 10 piantane. perché tutti gli altri tipi di rotelle non tenevano, duravano un po' e poi dopo spaccavano, si deformavano. Invece queste qua, da quando le ho messe, le ho avvitate proprio ai piedi del mobile e tengono. E posso spostare tranquillamente, adesso lo riesco a spostare, con tutto il carico che c'è sopra riesco a spostarlo tranquillamente. Sì, certo, sì, perché con le rotelle lì se sono troppo piccole non è che vengono molto, è come peso, capito? Infatti ogni grandezza di rotella troviamo poi un certo numero di chili, capito? Sì, che se uno ci deve mettere un peso abbastanza elevato devi ritirare su delle ruote un pochino più grandi, capito? Sì, poi, sì. Va bene, la cottura sta siamo in quasi, non l'ho vista dal vivo, diciamo. L'ho vista in foto. No, ma poi io ho dovuto realizzare una parte del mobile a misura rack, perché ho dei sistemi audio, lì hanno una misura standard, perciò lì ho modificato doveva essere una sorta di piccola libreria, lì l'ho modificata e praticamente ho accorciato la larghezza tra i due lati, in modo da fare la misura standard rack 19, infatti lì ci sono tutti gli strumenti. Poi ho fatto una sezione dove c'era prima il ricevitore, adesso c'è un amplificatore audio, e poi una sezione dove c'ho i porta CD e in mezzo c'è incastrato un monitor da 23 pollici. Insomma, l'ho fatta a misura, ma proprio per un motivo lì. Adesso devo modificarlo, perché devo abbassare i piani in modo che poi si possa vedere la parete di fronte, e mi faccio una L, dove nella parte piccolina mi ci metto tutta la parte del computer, tutta la parte audio, e il banco lo libero tutto e dovrei riuscirci a farci stare almeno su due piani, anzi su un piano solo sollevato, ma si parla di un piano che è all'incirca 25 cm di altezza, giusto per farci stare la radio sotto, in modo che così non mi dà ragione davanti, e dovrei riuscirci, perché come stavo dicendo prima, per mettere tutte le radio su un piano solamente le radio mi serve almeno un 5 metri di diciamo di lunghezza, ma mettendole una appiccicata all'altra, perciò già si parla di 5 metri e mezza per tenerle un po' più larghe tra una e l'altra. Siccome non c'è tutto questo spazio in lunghezza, allora su due piani con 3 metri più un altro piano sopra gli altri 3 metri siamo già a 6 metri di utile, lì già il discorso cambia, perciò dovrebbe andare meglio. E piano piano, tanto questo è un hobby, non è un lavoro, perciò si fanno le cose con calma, piano piano, e quando si ha voglia e quando si hanno soldi, perché queste cose qua poi sono altre cose, tra altre cose portano via anche soldi. Ha realizzato un autogol, dunque giusto così quelli che hanno fatto gol. Ma l'importante, sì, ho capito Massimiliano, sì, no, infatti quello di Claudio è abbastanza profondo, anche addirittura c'è la stazione davanti, ci sta diciamo il microfono tanto, perché lui ha ogni stazione ha un microfono, che lui l'ha sistemato per benino tutto, ma avrà dunque sono 220 più 1,50 e sono già 3,70, insomma siamo nell'ultimo dei 4 metri lineari che lui ha, è una bella sistemazione veramente. Poi sopra quello c'è un altro ripiano all'incirca 1,20 m, 1,30 m, forse anche 1,40 m, dove lui appunto ci mette tutti i baracchini, perché se lei ha divisi in questa maniera, no? Ha fatto una stazione professionale e tu una stazione NCB, di conseguenza ha posizionato tutto nella maniera migliore, capito? Vabbè, la partita non ce ne frega niente. Ti ripeto, è lungo 3 metri, però io nello stesso tavolo una parte l'ho dovuta dedicare per il computer, anche perché io ci lavoro col PC. E la cosa buona è che io di profondità c'ho un utile di quasi un metro di profondità, perciò la roba ci sta tranquillamente, e c'ho anche il piano d'appoggio, se devo scrivere, se devo fare qualche cosa, lo posso fare tranquillamente e c'è spazio. Inoltre, se è lungo bisogna che sia anche bello profondo. anche perché ogni radio in profondità occupa un bel po' di spazio, stiamo parlando di 30-35 centimetri di media come profondità ogni radio, perciò se hai un tavolo diciamo non abbastanza profondo poi non hai spazio per appoggiarti, invece così io anteriormente come spazio ho la bellezza di quanto sarà un 30 quasi un 50 centimetri di utile d'appoggio, perciò è comodo. Ho capito, no, quello di qua è più profondo, sarà intorno ai 65 centimetri, poi sono dei piani fatti in noce e daniela e poi li ho modellati in colore ciliegio, si crea anche un bel colore, tra l'altro, insomma diciamo che è uscita una bella stazione veramente. Vabbè, dai, Massimiliano, io ti lascio perché qui c'è la televisione accesa e non posso continuare più di tanto. Prova a chiamare a Gianni se si è svegliato, ci sentiamo eventualmente. Ciao Massimiliano, alle prossime, ciao. Ciao, ciao Giulio. Gianni, ti sei svegliato, bravo. Ti lascio con Massimiliano, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, no, non è che non era addormentato. Mi ha chiamato mia figlia, papà, papà, vieni, vieni, ed era con la studia di Tugni che legava gli elefanti con la catena, praticamente la striscia la notizia l'hanno beccato. Io ho capito, vabbè, anche quello è una cosa un po' brutta, ma trattare perché secondo me si tratta di maltrattare gli animali in quella maniera, comunque lasciamo perdere, vabbè, ciao già, ciao, ma si vede, stupendi, ciao, io non mi ascolto, ciao. Ciao, ciao, Lula. Ha detto provate a andare negli altri circhi se ci sono circhi che non legano gli elefanti con la catena, e all'improvviso sono andati e non ne ho trovato manco uno di elefante legato. Hanno adottato un diverso sistema con dei container enormi dove gli animali stanno bene e hanno fatto bravo tutto legato e tutto quanto, e dice che così loro vivono tranquilli. Non si può legare un animale a meno che si veda che desi pericolo alla gente, roba del genere, ma se no l'animale va tenuto slegato, deve vivere tranquillo. Aspetta, se non mi disturbi. No, come mi ha fatto il animale la fastidio anche a me. Non animali, ma da un animale, perché la fastidio anche a quelli che sono eccessivi. No, per farli male assolutamente, no, non lo concepisco. Diciamo che l'animale va trattato da animale, però se fa parte della integrale della famiglia, io lo vedo come uno della famiglia, ecco. Tanto è vero che mio figlio quando fa i compiti che scrivo, quanti siete in famiglia, lui scrive... praticamente ci siamo io, no, c'è mamma, papà, io, mia sorella, il gatto, e quando c'è il nonno scrive anche il nonno, però il gatto lo mette sempre in mezzo, capito? Vabbè, per un bambino sì, per il cane, no, guarda, io, a me piacciono gli animali, io fino a piccolino ho avuto sia gatti, cani, poi anni fa avevo anche le cavie peruviane, ho avuto i piccettini, cioè, ci sono sempre piaciuti, Adesso infatti con mia moglie stiamo pensando di prenderci un acquario, perché ci piacciono entrambi, però vedete, prendiamo l'acquario e voglio anche il gatto, se no come si fa a poi chi si mangia i pesci poi dopo? Certo. Io sono amante dei gatti, guarda, io tra un cane, un gatto e poi questo gatto. Il gatto è più autonomo come animale del cane, però il cane è più affettuoso. Anche se devo dire che io ho un gatto persiano e mi è affettuosissimo. Si fa coccolare, addirittura mi cerca lui, a volte quando sto guardando il televisore si avvicina, mi chiama per accarezzarlo, quando lo accarezzo poi mi sale in grembo, la vita è un coccolone. E c'ho anche i pesci, non mi ha mai toccato un pesce dall'acquario. Sì, ma guarda che il gatto in ogni caso riflette un po' le caratteristiche della famiglia, anche di chi lo acquisisce. E poi sta a chi c'è la casa a educarlo, insomma, facciamo in modo che le cose non avvengano. Per cui, per il mio, il gatto, se è trattato bene, è affettuoso anche il gatto, a prescindere. A me mi piace di più del cane. Una questione, vabbè, è un gusto che non si discute con chi ama anche i cani, per carità. Però, a me il gatto mi affascina di più rispetto al cane. Ma io già preferisco il cane, dico la verità, però anche il gatto non mi dispiace, dico... Specialmente Titi è un gatto coccolone, mi va bene così. Aveva una mia sorella che sembrava una tigre. Una volta mi ricordo che ero a casa sua e mi sono seduto nel divano, avevo il braccio nel bracciolo, poi l'ho fatto scendere giù. Come l'ha visto pentolante, mi ha dato 1, 2, 3, mi ha fatto 3 graffi, ma lunghi, tutto il sangue scendendo, mi sento a fare lunghi. Sei a vedere cos'è questa cosa. No, la cosa bella è che quando abiti il gatto a salire in grembo, l'inverno c'è pantaloni a graffa, il jeans, ma d'estate quando trova le gambe senza protezione, ui. Ah, poi ti dico, sai cosa fa? Sicuri che quando passa le tubature del riscaldamento, si sdraia lì a pancia all'aria, ti fa pisciare dalle risate, si mette a pancia all'aria con le gambe dritte in alto e si addormenta così. Sopra dove passa il tubo sifone in terra, no? Perché c'è la centralina che è dietro la cucina componibile e rimane dietro. Infatti ho dovuto rompere un pannello della cucina perché se no non riuscivo ad arrivarci. C'era un appetito, la volta per non smontare tutta la cucina ho dovuto rompere un pannello, farlo il quadrato. Là. Ma il fatto sta che lui si mette lì tranquillo, si addormenta, non rompe la scatola a nessuno, ogni tanto la carezziamo, è molto indipendente il gatto. I pesci, se ti compri i pesci chiedimi consigli. Sì, anche di quello già c'ho esperienza, perché a casa ugualmente i miei hanno sempre avuto un acquario, perciò già... Abbiamo costruito anche una centralina di controllo per l'acqua, sempre monitorata. Ah, sono bene anche i pesci, a me piace l'acquario marino, cioè di acqua salata, però è un casino. Una volta l'abbiamo avuto, ma non ti dico il dramma per mantenerlo. Ci avevamo messo le tigurine, poi una volta c'erano anche le sparrottine, il raghetto piccolino, era quello grande, era un bel acquario, però ci vuole troppa fatica a mantenerlo. L'acquario è bello, tropicale marino, se tu fai un marino tropicale con i pesci, quelli che chiamano Nemo, quelli lì, che sembrano Nemo, quelli lì sono un po' belli. Poi ce ne sono alcuni viola, gialli, tutti i colori, le rocce vive, gli anemoni di mare che si muovono, sono bellissimi. Tu vai da Davide e lo vedi l'acquario marino com'è, ed è un bel bello, è fatto tutto a rocce vive, davanti e poi con i pesci tutti colorati, ma molto bello, un acquario di lusso davvero. Davide lo sai dov'è? quello che c'è, ma parli adesso, non lo conosco, però vabbè, ci sono andato già tante volte, quello che c'è vicino a Giulio. Esatto. Sì, stavo contattando, infatti lo dovevo prendere, però poi mi dovevo trasferire di casa, allora come moglie abbiamo detto aspettiamo, perché è inutile prendere l'acquario, poi stare per lo sblocco anche dell'acquario, sarebbe stato un dramma. Però abbiamo aspettato a trasferirci, vediamo se inizio l'anno nuovo, abbiamo questo problema purtroppo, questa cosa, mio figlio, e adesso appena dice se si un po' di più ce lo prendiamo. Sì, no, ma l'idea è quella lì, di prendere proprio quel genere di acquario. Poi dici tu, sono il pesce pagliaccio, quello di Nemo. Non mi veniva il nome. Sì, poi ci pagliaccio, poi ci sono quelli viola, quelli gialli, quelli azzurri con la bocca a punta, non è belli, è una favola quello lì. Perché ti crea problemi con lo truppicare salato? C'è un problema per quanto riguarda l'ossigenazione dell'acqua, infatti se non è una buona ossigenazione e i filtri sono diversi rispetto all'acquario normale, perché lì praticamente abbiamo preso l'acqua proprio di mare, depurata, fatta decantare, perché lo sai meglio di me che poi l'acqua è contaminata e quant'altro, faccio abbastanza depurata, vanno tutti quegli elementi nocivi. Poi una volta che crei la vita all'interno devi tenere un certo ecosistema che è completamente diverso da questi altri acquari, e dunque ci ha durato un bel po' d'anni, però poi dopo comincia a mancare magari il filtro più dove, e poi dopo è successo un casino, poi l'avevamo eliminato e adesso c'è un acquario marino tropicale, adesso i miei c'hanno. Comunque è bello, a me piace ugualmente, poi a me mi piace, rimango lì fermo a guardarlo ed è un bel rilassante. Molto, molto delicato. Buonasera. Ciao, lo sa. Perché tu che io passo ore e ore a guardarlo l'acquario, l'uomo dice ma sei incantato, mi piace il comportamento, io c'ho tutto, mi c'ho i gamberi, c'ho le lumache tropicali, c'ho pesci, c'ho gli avvanuti che mi sono nati nella sala parto, c'è tutto quanto. Io ho sempre fatto degli acquari di acqua dolce, però tropicale. Sandra, avanti. Eia. Ciao Gianni, buonasera. Salutori, che adesso non mi ricordo il nominativo. No, già, io c'ho il polpo, che è in amore. Polpo? Sì, il polpo che è in amore. Sì. Ma cosa c'è l'acquario perché? Si conferma. Oddio, a parte gli scherzi, è quello marino? Eia, quello marino. Ma è molto, molto complicato già. Un bel complicato. Perché io penso che se mi metto a farlo l'acquario marino riesco a portarlo avanti, ma mi documento prima di farlo. Cioè è inutile che uno si butta così a farlo se non ha le nozioni principali per poterlo mandare avanti, è quello che c'è, perché molta gente parte con il piede sbagliato. Eia, però ti spiego, in proporzione all'acquario diciamo di acqua dolce, quello marino, giusto come stava dicendo lì, che adesso mi scuserà ma non mi ricordo il nominativo, riguardo all'acqua salata, che l'acqua salata diciamo ha vari componenti, magari è sporca e così via, allora io di media al mese soltanto di filtri, perché ho doppi filtri o due filtri, spendo la media di 40-50 euro di filtri. Figa, però è dispendioso. I pesci costano un bel, però io ho avuto i discus che costano 85 euro da quando sono piccolini. Io ho avuto dei discus che sono diventati enormi, non so se tu li conosci i discus. Sono praticamente il re dell'acquario di acqua dolce tropicale. è il massimo che tu possa avere, se non gli do un pH neutro, eccetera, eccetera, tutto quello che gli devi dare, il disco si condurrà ma come la giornata. Ho capito. Chi era, che non mi ricordo più il nome nativo? Massimiliano Archimede. Esatto, ciao Massimiliano, scusami ma non mi ricordavo più il nome nativo. No, già, è molto molto problematico, credo. Io ce l'ho da parecchio, quello. Bianco per me un attimo. Poi gli devi fare il trattamento, diciamo, sul vetro, perché il vetro, insomma, tutte queste palle contro palle, non è come quello di acqua dolce. Sì, perché quello marino mette un bel di merma, si sa, però la merma tu basta che gli passi una lametta o uno di quei raschietti piano piano, come la merma si sta che il piccione se la mangiano, manco te la farò togliere. No, per quello c'ho proprio una specie, chiamiamolo spazzolino, chiamiamolo quello che vuoi, non è tanto quello lì, è quanto i filtri che vanno in depurazione a depurarti, diciamo, l'acqua 24 su 24, loro sono, diciamo, sempre lì lavorando, sempre filtrando, e sono, diciamo, di quei filtri al carbonio. Poi cosa ti volevo dire? Allora, quello che c'ho io è circa 2,50 m lungo per 1,50 m alto, quindi diciamo ce ne sta di bell'acqua quando a depurarla, diciamo, e così via, in continuazione. Allora, sì, ma i filtri non capisco perché costano così tanto, non capisco. Io c'ho i filtri di spugna. Basta che io li tolgo, li lavo con l'acqua calda, hai fatto il gioco. Mi pulisco l'acqua calda, li vedo loro bianchi, li lascio a bagno un po', poi li risciacquo e via. Dei filtri, allora guarda, dei filtri ce ne sono anche più economici. Li ho provati, però niente da fare, nulla da fare. Perché poi succede che la temperatura dell'acqua deve essere sempre costante a quella temperatura lì, insomma, non è così, dai. E cosa c'hai dentro di pesce? Allora, dentro c'ho un polpo, un polpettino che ce l'ho già circa da quest'estate, poi c'ho una seppiolina, poi c'ho una mormora, due saraghi e un'oratina. Ma perché non mai dovevo andare a pescare qualche cosa che l'avrei beccata? Anche colorata, con le barchette, quelle sono belline. Ah, sì, ma cioè metterci troppa roba dentro non è che, insomma, lo ingolfi, dai. No, hai ragione. Qualche pulicocci dovresti mettere, qualche granchio. Vabbè, non la bella Romagna, Qualche granchietto, gamberetti, roba così. Io ho i gamberi, ho avuto anche i granchi, sempre tropicali. Ho avuto le aragoste, lo sai che mi hanno fatto i figli le aragoste, più di 100 figli mi hanno fatto. Mi hanno fatto le uova e non so se le tengono in pancia. Ho avuto queste due aragoste io, solo aragoste, con le voce blu, sempre tropicali. E si tengono le uova in pancia. Se ne accorta mia figlia, la piccolina, papà, c'hai i piccoli l'aragosta. Li fa sviluppare, i piccolini li fa sviluppare dentro quell'affare che chiude, ce l'ho presente, non so come si chiama. Beh, fatto sta che io ho preso l'aragosta, gli ho passato il dito, li ho fatte scendere dentro la sala a parte, li ho tutte allevate le aragostine. Ehi, ma mi sembrate sentire qualcuno in sottofondo, no? Era una partita di pallone, comunque ti ascolto lo stesso, non c'è problema. Ho capito, bello le aragostine, sì, sulla coda, se li le uova se le raggruma diciamo sul posteriore, diciamo sulla coda. Bellissimo, almeno ha avuto anche quell'esperienza. No, qualche volta ci butto dentro quei gamberetti, qualche granchietto e così via. Poi c'ho, te la ricordi la gnattara? Sì, c'è la voglia che me la ricordo, l'ho pure presa, non si possono più toccare. Sono delle cozze grandissime, vai. Esatto, da resto cazzo, insomma restano. No, ma è piccolina. Me l'ha data mio cugino quest'estate, siccome lui fa pesca subacquea, era giù all'Argentiera, ma sarà piccolina, sarà alta circa, cosa ti posso dire, 30-40 centimetri. Cappa, rimane sul rossiccio, vero, nell'acqua? Esatto, ti fa questo effetto, su questo caso sul violastro, sul rossiccio. Delle volte mi metto lì proprio guardando tutto quanto, lei la vedi aperta, ossigenandosi e così via. Poi dentro ci mettevo delle cozze aperte, tu dovevi vedere le ratine e i saraghetti come si buttavano a capofitto. Come le nutri, cosa gli dai da mangiare a parte le cozze? Ci butto dentro se quando trovo i granchi, oppure i gamberetti, quei gamberetti congelati, glieli trito, glieli faccio a pezzettini, e poi vabbè, c'è quel componente tipo specie di mangima, ma quello relativamente. E il polpo che cosa gli dai? Polpo, granchi, gamberetti e questa specie di composto, diciamo, per i pesci marini. Cos'è? Di scoglio? Veglia. Ci ho messo un bottiglione, presente un bottiglione da 2 litri, gli ho tagliato diciamo quasi tutto il collo. Quasi tutto il collo gliel'ho tagliato e poi l'ho bello, diciamo per non essere taglienti o così via, l'avevo bello, diciamo bello lavorato, e ogni tanto lui ci butta dentro, poi vabbè ci sono di quelle pietre, ho preso di quelle pietre tutte bucate, tipo quelle di Stintino. Quelle rossicce. Non rossicce, quella proprio di Stintino, quella grigia, tutta a buchi. Ah, ho capito, ce li ho anche io nell'acquario quelli, sì. Io le ho fatto delle tane, le ho fatto del tipo capannette con le pietre, le ho fatto delle tane, loro si rifugiano, poi c'è la brocca dove c'è l'ossigeno di lì. Se ne entrano dentro, si fanno anche i figli, hanno fatto lì dentro, e la madre restava sempre di guardia per non farli toccare. Sai che ho avuto anche la murena io? Addirittura. Ci vuole troppo, deve starci molto attento già, è un bel complicato. È bello, perché è bello, io ce l'ho già un bel po' di anni, però ci vuole molto impegnativo. La murena tropicale è come la nostra, come la murena normale, uguale. Non l'ho avuta grandissima, però l'ho avuta. Mi ha fatto un po' di strage nell'acquario, allora l'ho eliminata. Mi aveva garantito che non le toccava i pesci, e invece si era mangiati i gumenti. E poi l'ho ritornata perché non mi andava. Quando ha partorito l'aragosta, mi ha fatto il giro di tutti i negozi di animali di Sassari, lo sai che rimanevano tutti increduli a vedere le aragostine, cazzo, ma non mi dire, tu c'hai una fortuna sfacciata perché le aragoste non si riesce a riconoscere, dice, quando è maschio e quando è femmina, quindi hai avuto la fortuna sfacciata che si siano accoppiate tutto quanto, e poi cambiavano l'accorato, tu dovevi trovare tutta l'accorato e dire sembrava una aragosta morta, no? Poi da toccarla si sfaldava tutta, completamente intera, con le zampe, con tutto quanto. Così è bello, così è bello da vedertelo, diciamo, il procedimento, diciamo il procedimento naturale, dai, così è bellissimo, gatto. Sì, va bene. Sì, avevo intenzione di metterci qualcos'altro di diverso, però adesso c'è un periodo che c'è questo porto lì, che ogni tanto lì se ne va, si abbraccia tutta la sebbia, se la tiene sotto, e ho paura che la faccia fuori, No, ma non penso, adesso è più a parte a ragione, ma non l'ho mandato in chiostro. No, delle volte vado a cercarla, vado a vedere. Detto, cazzo, ma dove la sebbia? È piccolissima, cazzo, cioè non è una sebbia grande, è piccolissima. Delle volte la vado a cercare, beh, non la vedo, e ti vedo un po' lì, tutto è grovignato, tutto coso. Delle volte se non ci fai, adesso vabbè, ho fatto, cioè, una volta che ci fai l'occhio lo sai dov'è a lui perché vedi gli occhi, ma con quelle pietre di stintino, poi col riflesso dell'acqua, tutto quanto, delle volte quasi lo vedi tutto mimetizzato e non lo riconosci. Lo vedi tutto aggrovignato, tutto quanto, della volta cerco un attimino, perché c'è un rettino, provo a spostarlo e c'ha la sebbia tutta, se ci mette la sebbia sotto e se la aggroviglia tutta. E lui se la fa fare, boh, strano, perché la sebbia è un po' tonta, la sebbia, perché una volta mi ricordo, sono andato con il dottore, stavamo pescando, era un po' annoiato, mi sono messo come il mio solito a fare, e anche ho beccato qualche colpo da 5 kg, così mi metto sempre con la pila a guardare il fondale. A un certo punto vedo questa sebbia che saliva verso di me come vedeva la luce, e cazzo ho detto, gli ho detto Giuseppe, come si chiama? Ma Giuseppe Leoncino. Ecco, Leoncino, passami il corpo, cosa c'è? Stavo venendo a guardare, mi sono fatto passare il corpo e l'ho presa, era anche grossa. Sarà stata 400 grammi, 500 grammi, bella manna era. Sì, ma la sebbia diciamo che è come il polpo lì, il polpo lo stesso è innocuo, tu lo vedi, sembra tutto ubriaco, tutto si mimetizza, si fa, siccome io ho messo non proprio sabbia nel fondo, ma ho messo, l'avevo presa lì da Coscia di Donna, dove c'è proprio quella specie di pietrolina, un po', diciamo, un po' grossina, non è proprio la sabbia, rimane di quelle pietroline, no? E lui si prende lì e si copre tutto, perché ne ho messo uno spessore sul fondo, sarà uno spessore, il minimo saranno 10-15 centimetri, e lui delle volte si mette sotto lì, sotto queste pietroline, e si mimetizza. Guarda, è bellissimo da vedere, Lo so, che ho pagato, non lo sapevo che avevi, io una volta ho preso un'ombrina bellina, non tanto grande, l'ho ributtata d'acqua, se avessi saputo che vi da quello te l'avrei conservata, per l'avrei portata a casa. Bella, è bellina, sono stata 200 grammi così, però l'ho ributtata d'acqua perché, diciamo, si fanno un bel grande, ne ho preso anche da un chilo e mezzo io. Ho capito, no, vabbè, ma così 200 grammi o diciamo è già, insomma, un pesce già un po' consistente, dai. E non fa mettere pesci grandi, perché pesci grandi poi si ingolfi, ma anche per l'ossigenazione, capito? Per l'ossigenazione loro, perché se metti troppi pesci, anche se sono diversi, ti devi attenere in base all'acqua, al contenuto dell'acqua, perché l'ossigenazione o è troppo bassa o non le va bene e poi stanno male loro. Va bene, io ti dico, allevate i discus, che sono dei pesci che sono bellissimi, non so se li hai mai visti. Cercalo su internet, metti discus e li vedi. C'è di tanti colori, sono pesci coloratissimi, con livree azzurre, verdi, arancioni. E io li ho presi da piccolini, ce n'erano che costavano anche 100 euro a piccolini. Immaginati tu, se ti vuole un discus ti ammazzo, ti suicidi. E niente, però prima di metterli mi sono documentato, ho misurato il pH dell'acqua, prima di scendere nella vasca ne ho fatto dei trattamenti. Ho capito, no, già ce ne sono. Ce ne sono di questi pesci tutti colorati, ma costano una barca di soldi, costa una barca di soldi già, se poco succede qualcosa o alla depurazione oppure alla tenuta costante dell'acqua, che cosa? Adesso perdi uno di quei pesci, cazzo, sono soldi. A me una volta è successo, allora io ho visto questo pesce che era turchese, piccolino ma tutto turchese, bello, ho detto quant'è che me lo dà quel pesce lì? Dice 85 euro, perché sei tu, perché ne hai comprato già altri, se no sarebbe da darlo 100 euro questo qua, vabbè dammelo. Poi l'ho guardato bene, ho detto no, aspetta un attimino, mi sembra strano questo pesce, no, quello lì è il suo comportamento, questo e quell'altro, vabbè lo metto nella vasca. Questo ho preso il sabato di mattina, allora vado a casa, il pesce era già strano, se ne stava in un angolino, tutto fermo, ho detto questo pesce va da che cosa, e gliel'ho riportato che era ancora vivo. E mi ha detto non c'ha nulla, già sei tu fissato, si deve solo ambientare, vabbè, lo riporto a casa. Quanto mi ha durato? Un paio di giorni. E il pesce mi è morto. E non mi ho riportato morto. Ho detto, ecco, questo qua è il pesce che tu dicevi che non c'era nulla, ma allora è colpa tua, ma il pH dell'acqua l'ha contratto. Tu guarda che io pesce ne ho altri 5, non è uno solo. Forse è stato il pH, sarebbero morti tutti, ma magari quelli si sono adattati, il discus non si adatta manco per le palle. Se addirittura li mettevo acqua distillata io per avere un'acqua proprio neutra, non per non sbagliare, perché basta un nulla, ti si alza il pH e cosa. Allora li compravo l'acqua distillata a bidoni e lì costa poco, sì, l'acqua distillata, però non è consumato. Ho capito, vabbè, l'acqua distillata già sei già sicuro, non è come per dire che prendi per dire acqua dal rubinetto, poi devi aggiungere il pH e magari il pH delle volte magari il dosaggio magari è appena di più e il pesce magari ne soffre, ma evidentemente quel pesce lì già aveva qualcosa in precedenza. No, ma sono delicati, sono molto delicati. Adesso per dire le cozze però non quelle grandi, quelle medie, piccole, gliela butto dentro, tu le puoi guardare, tu vedi la cozza aperta e completamente pulita. Poverazza per le cozze. Ora pensare che il polpo le mangi. La Puglia, se la braccia tu lo vedi lì tutto aggrovegnato, tutto quanto, cioè ci dovresti stare ore e ore per stare a vedere la sola, per tu le metti adesso, controlli dopo l'indomani, dopo vedi tutte le cozze, la buccia delle cozze sul fondo, pulite. E questo modo di dare da mangiare non ti sporca l'acqua. Ecco dove il discorso. discorso. Allora, il mangiare in se stesso, perché io ho provato con quel composto, diciamo, di una specie di mangime più che altro per i pesci, diciamo, di acqua salata, ho provato un certo periodo e i filtri mi duravano, perché ci sono due filtri, capito, una doppia filtrazione, mi duravano intorno a un mese e mezzo, due mesi o così via. Poi ho detto, ma voglio provare un attimino a metterli più o meno, diciamo, il mangiare più o meno che loro mangiano, diciamo quelli gamberetti, cozze, qualche granchio, questa roba qua, e più o meno, diciamo, i filtri più o meno hanno più o meno quella durata, capito? Non è che durino di più o di meno. Allora, è una bella passione, adesso io... A me piace tutti i tipi d'acquario, ma specialmente mi piace quello marino tropicale. Io, diciamo, ho opzionato a quello di acqua dolce tropicale, però l'ho fatto solo come un ripiego, perché il vero acquario che piace a me è quello marino. Marino tropicale. Ci sono dei pesci che sono un affanno, costano tantissimo, però... ne prendi uno ogni tanto, non è che devi stare a prendere tutti in una volta, uno ogni tanto, punto. Come faccio io con l'altro acquario, quando per dire ho fatto i soldi in più, poi non me li prendo. Avanti Massimiliano, ci si. Avanti adesso. Massimiliano, se vede, si è sentato. Sì, vabbè. Tu considera che io di media una volta al mese li cambio l'acqua, e di solito a prendere l'acqua vado sempre lì dopo Palai, lì, quelle zone lì, la faccio, diciamo che la faccio decantare un 3 o 4 giorni, poi con una pompa per non toccare il fondo la prendo, la travaso sul bidone, poi pian piano svuoto l'acquario, butto dentro quell'acqua nuova. Quindi guarda, c'è un procedimento, cazzo, guarda, paranoico, però è bello, se uno c'ha la passione è bello. L'unica cosa, diciamo, che sporca anche molto l'acqua sono quelle pietre lì. Infatti avevo chiesto già a chi ce l'aveva, mi ha detto, dice, io di solito non metto di quelle pietre, di solito se metto quelle pietre le vernicio, ci do un colore, faccio il simbolo, che cosa, e tra io allora tanto vale che metti di quelle pietre. Un attimino di bianco, sa che mi ha chiamato mia moglie, un secondo so. Ha sentito l'odore di gas, mia moglie è preoccupata, ha detto quello lì è perché sta finendo la bomba. Allora se sta finendo la bomba un po' lo fa. Controllare un secondo, va. Attenzione, dici? Signor Corote. Ciao, Anni, dove? Mi stavo ascoltando, mi sono assentato un attimo e non ci siete più. No, Gianni si è assentato un attimino. Si è assentato un attimino. Ma di rotte, non c'è nessun altro? No, al momento il canale 10 è prosciugato, dai. Di rotte, un attimo, facciamo una bassa e ci sentiamo fra un attimo. Io ci sono. Sì. Sto rientrando. Ciao, pare sa. Eia. Devo pensare a quello, perché sta finendo, è finita la bambola adesso. Però l'abbiamo chiusa tutto quanto, c'è questo odore di gas, guardate, ci abbiamo sempre un fornellino di quelli da campeggio per quando manca la bambola. E ho comprato anche quello, metto forse il fornellino. Ah, non è possibile, perché... è finita la bombola e dicevo, questo fornellino, stavo facendo le pietre, stavo cucinando e le ho messe nel fornellino, lo metto dentro il lavandino, il fornellino, di modo che se succede qualcosa si gira, che cosa cade nel lavandino, non fa danno. E la pentola sopra e ha cucinato le pietre intanto. Lo tengo sempre di riserva, anche se c'è due cucine. però siccome quella di fuori è finita la bomba e non l'abbiamo presa, siamo trascurati un po' scusate, no. Ok, comunque deve essere sicuramente quella fase, adesso chiuso bene la bomba, la vediamo un po', perché dice che se torna due di gas è un bel strano. Niente di strano, che magari sia finita la bombola, perché quando finisce la bombola più che altro lo sai la puzza cos'è, diciamo della, di questo cavolo di colorante che buttano dentro il gas. Almeno quando succede qua a casa è lo stesso. Ascolta, la pompa che va dalla bomba alla cucina, più o meno, ogni quando la cambi. Quando c'è la scadenza, io vado alla scadenza e la cambio. Ho capito. No, sai, delle volte anche con la pompa, adesso non lo so com'è il tuo impianto della cucina o così via, adesso per dire io so c'ho il terrazzo, c'ho il terrazzino e fuori c'ho la bombola, c'ho l'agganci, c'ho due agganci con due flessibili, con due manometri, poi da lì parte il tubo del rame, arriva dentro nella cucina, poi dalla cucina c'è un flessibile, mi sembra che sia intorno ai 50 cm, un metro, che va alla cucina. No, io ho proprio il posto bombola nella cucina con la pompa, quella normale, basta. Ho capito. Perché la pompa stessa, quella è pompa in gomma, diciamo di solito vanno cambiate, non dico una volta al mese, ma insomma adesso non lo so la durata, diciamo, della scadenza che loro hanno. Io la faccio sempre contro il bombolaio quando viene, se la cambio dico di cambiare, sempre così ho fatto, non ho mai trascurato queste cose, io la faccio sempre cambiare, se ce l'hanno glielo dico di portarla e me la cambiano loro. Quello sì, no vabbè, ma diciamo di solito lo noto anche io delle volte quando sta finendo il gas, che questa specie di puzza è proprio derivato, diciamo, non tanto dal gas, ma quanto, diciamo, da questa specie di colorante che mettono dentro quando fanno l'imbottigliamento, diciamo, e così via. No, perché, oddio, col gas c'è poco da scherzare. Sì, poi se accende la luce è scoppiato tutto, col gas, se c'è il gas dalla stanza. Una volta siamo andati, c'era questo tipo che si stava suicidando, abbiamo sfondato la porta, siamo entrati dentro, abbiamo tolto il fumo. E la prima cosa che abbiamo fatto è spartare il gas, sembra strano ma si ferma a metà, non si sparta con la scopa e butta fuori dalla finestra. No, ma quando è così, subito aprire finestre, areggiare quanto è più possibile, non accendere luci, insomma, poi già lo sai, dai, com'è. Vabbè, domani la ordiniamo la bombola e via, lo faccio controllare tutto. È sempre meglio. No, io adesso qualcosa me la ricordo, perché circa due anni fa ho dovuto prendere quell'attestato di alto rischio, diciamo. Infatti avevamo fatto alcune prove qua alla Butangas, a Porto Torres, poi gli esami li avevamo fatti lì a Vigili del Fuoco di Sassari, prova diciamo esame scritta e poi le prove diciamo del classico estintore per lo spegnimento diciamo della fiamma e poi diciamo i vari componenti che si usano per dire la maschera, ossigeno e quella roba lì, e quindi un po' qualcosa me la ricordo ancora, Ma per la DR l'ho fatto questo corso? No, non l'ho fatto per la DR, l'ho fatto per un'altra questione, diciamo, dai. Vabbè, l'abbiamo fatto anche noi. Ci hanno fatto spegnere il fuoco di una bombola, ci hanno fatto praticamente spegnere con l'estintore, usare l'estintore, ce l'abbiamo fatto fuori praticamente dove ci sono i parcheggi di granai, però dietro, dove c'è il magazzino, là. No, l'abbiamo fatto lì alla Butangas, l'abbiamo fatto, cos'era? Ancora c'è un libro, a casa c'è un libro, una matassa di libro che non finisce mai, e l'abbiamo fatto per circa, cos'era mi sembra, 3 settimane, andavamo pomeriggio 3 ore, per 3 settimane mi sembra, se non ricordo male. E poi diciamo lo scritto e la prova diciamo lì ai Vigili del Fuoco a Sassa. C'è tutte cose che guarda che bisogna imparare a mettere da parte, perché al momento giusto opportuno puoi toglierle fuori. Adesso ti racconto una storia. L'altro giorno questa amica mia è andata a casa della cugina. La cugina è giovane, è un bambino piccolino, ci avrà 1 anno e mezzo il bambino, e l'hanno invitata a cena e il marito ha detto vado a sdraiarmi un po', e la moglie gli ha detto cavolo c'è gente, ti deve sdraiarti, sono un po' stanco. Fatto sta che lavora e quindi magari la moglie ha capito, dice vabbè dai, scusalo ma deve essere stanco davvero. Poi a un certo punto ha sentito chiamare a voce alta, sono andate lì e hanno trovato Viola, un ragazzo giovane, non è che sia un infarto, cominciano a gridare, cosa? Poi questa amica mia che ha fatto i corsi di pronto soccorso, ha fatto i corsi di BLS eccetera eccetera, si è buttata ed ha visto Viola, ha cominciato a fare il massaggio cardiaco, e come l'ha fatto il massaggio cardiaco dopo un po' si è ripreso, era tutto Viola e diceva già morto, già non dava segni. Io gli ho fatto chiamare 118, poi ho chiamato a babbo che il padre è praticamente infermiere professionale, stava per Atturia, e ha chiamato il padre, però dice che è arrivato prima al 118, gli hanno detto buttalo giù dal letto, e come faccio? Pesa 120 kg, come faccio a buttarlo giù dal letto? Mi faccio male, sono sola, e il coso, la cugina che ha dovuto portare su la bambina, il bambino da quella di su per non farlo impressionare, e ha chiesto che cosa c'aveva il padre e gli ha detto che aveva un mal di pancia forte. Niente di per non farlo spaventare, ma per dire nel momento opportuno certe cose servono. Caspita se servono già, come se servono, però più che altro diciamo servire è molto anche importante, diciamo molto sangue freddo e molta prontezza in determinate diciamo situazioni. Perché magari uno magari ha fatto dei corsi, quindi ha già più o meno un inquadramento diciamo del primo soccorso, chiamiamolo primo intervento, al momento opportuno. tu non trovi quello che magari si può trovare, non so, nel panico, si può trovare, diciamo, nella, un po', diciamo, a disagio. E quindi sono dei momenti dove diciamo, protetta, io mi ricordo quest'estate a Stintino, eravamo lì, tutto quanto, giornata normale, tranquillo tutto quanto, e c'era una famiglia lì seduta vicino, e c'era questo signore, stavano mangiando, c'era questo signore, aveva avuto un 60-65 anni, di Alghero, erano venuti lì alla Pelosa a Stintino. Ti vedo questo signore in tensione, stava mangiando un panino col panino fra i denti, me l'ho guardato un attimino, l'ho visto con gli occhi gialli, è bloccato. Cazzo, in quel momento che l'ho fatto, gli ho dato una botta sulle spalle, ma proprio così, magari al momento. Come ha dato la botta sulle spalle, lui è caduto a faccia a terra, ha mollato il pallino e comincia a aprire gli occhi e a fare quei sospiri profondi. Poi infatti avevano chiamato, cioè, allora lì c'era venuta la guardia medica, di Pozzo San Nicola. Fatto avvenuta per in effetti cosa era successo? Che gli era rimasto in gola un pezzo del panino e gli aveva bloccato, diciamo, l'ossigenazione, dai. Mi ci può, quel ragazzo lì è stato rianimato ed è stato praticamente 3 giorni con gli occhi fissi, non riconosceva nessuno. Dopo 3 giorni si è risvegliato, è stato tipo come un coma, capito? Si è risvegliato e non si ricordava più nulla di quello che era successo. Gli ha detto: cosa è successo? Purtroppo là sono situazioni, quelle lì, un po' particolari, capito? Ecco perché ti dico, insomma, è buono che uno, diciamo, faccia questi corsi, perché è buono, è meglio che, perché delle volte magari basta niente, una piccola iniziativa dove diciamo, si potrebbe salvare, diciamo, una vita umana, tutto lì. Va bene, Gianni, io ti saluto perché c'ho il mio signorino qui che gli facciamo fare la solita passeggiatina. Ma lui come si comporta con i pesci? Oh, guarda, è un bonaccione, guarda, è un bonaccione, lui è tranquillo, beato, addirittura adesso c'è mia figlia che si è preso un chihuahua. Ma tu devi vedere questo chihuahua, guarda, femmina, e ci avrà, è piccolissimo, cazzo, presente un topolino, ci avrà 7-8 mesi, ma casinista della metà basta. Perché sono prevenuti, sono piccoli e sono prevenuti perché hanno paura che gli facciano del male, allora si comportano così, hanno quel tipo di carattere lì, che praticamente si mostrano aggressivi e quindi nessuno cerca di fargli del male, capito? Perché hanno questo tipo di carattere, così sono i pechinesi, i chihuahua e via dice, chihuahua ancora di più. E vabbè, adesso è che te devo dire, meno male che non ci hanno messo la testa sugli animali. Io, per carità, ci manca anche la tassa sugli animali. No, guarda, io almeno per i cani, diciamo, ci tengo moltissimo, molto, io ho questo qui, che questo è, diciamo, è un meticcio, diciamo, mezzo incrocio, è bianco, sul caffè latte. E l'avevo preso dal canile perché io precedentemente avevo un Rokishire femmina che poi, diciamo, è andata, diciamo, a morire, diciamo così, era talmente, diciamo, la mancanza di un cane in casa, talmente, diciamo, affettuosi, diciamo, io avevo preso questa, ma è un tranquillone, guarda, Guarda, non ti dà fastidio, niente, ogni tanto giocherella, ma è tranquillone, tutto lì. Vabbè, già, dai, alle prossime. No, ciao, Alessà. Loro si vanno d'accordo di chi le ha fatto il bene, figurati. Senti, Grod, se ci sei. Grodino, ci sei? Ti stavo ascoltando, dai. Come mai non sei con l'eco? Adesso sei tu, sta a posto, niente in ordine. Ma e beh, questo pomeridiano non hai fatto? Pomeridiano? Non so qual è stato il mio questo pomeridiano. Il lavoro, ho fatto un giro di banca oggi e sono uscito di nuovo a consegnare. Non ho avuto tempo, però questi giorni io sono super impegnato. Stavo parlando con un corriere della TNT, mi ha detto che quest'anno non è come gli altri anni, però sicuramente è molto molto di meno il lavoro dovuto al fatto che non ci sono tutte queste spedizioni. Vabbè, dipende dal tipo di lavoro. Io per dire, in questi giorni sto portando pedane e pedane di panettoni alle ditte, questo e quell'altro, panettoni con spumante, confezioni già fatte, cesti natalizi, di quelli già confezionati, cioè stanno al lavoro, stanno. Sono contento. Oh, beh, se c'è una cosa che comunque l'italiano non si fa mancare, sicuramente la roba da mangiare, magari può rinunciare ad altro, ma io vedo i carrelli li vedo sempre pieni. Magari mi dirai i cestini, quelli che facevano. Perché noi vendiamo due tipi di cesti, quelli confezionati che sono dentro il cartone e poi ci sono quelli artigianali che facciamo noi che sono molto migliori e ci metti dentro quello che vuoi. E quindi, allora, gli altri anni partivamo dal 5 solitamente a consegnare i cesti, quest'anno abbiamo cominciato il 10, abbiamo cominciato 5 giorni dopo e il numero sono gli stessi, però li stanno facendo, non posso dire che li stanno facendo abbastanza. Quante consegne fai al giorno? E vai a gonta di due. Ah, però allora, quanti tipi di consegne? Perché ci sono i cesti, ci sono delle ditte per dire che fanno i cesti per... Cosa ti posso dire? Per uno che ha fatto una cortesia, roba geometra, ingegnere, dottore, eccetera. Ci sono quelli privati che praticamente vengono a fare il cesto per il dottore, che è generico, diciamo, è quello di famiglia, il medico di famiglia, l'altro che è quello di busto di... Ce ne sono tanti, poi ci sono le consegne a domicilio, ci sono le consegne nei bar, ci sono le consegne nei asili, quindi dimmi di quali ti devo parlare. Ma ce ne danno ancora o non si vede più? No, già le danno. No, sì? Sì. È un bel arrotondamento, eh? Prima di un arrotondamento, prima ti davano anche 50, 100 mila lire a Natale. C'era un cliente che mi dava 100 mila lire e mi scriveva il bigliettino con gli auguri e mi metteva i soldi dentro. Ma tu immaginati di farne già una ventina, che credo ne faccia di più, a 5 euro a colpo, sono 100 euro al giorno. Che 10 ti dà? Pizzo. Ma non è più come prima, prima sì. Prima ti facevo lo stipendio davvero senza scherzare. Lo so. Adesso ti mettono in mano 5 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro. Dipende. Io quindi li metto tutti da parte, prima li davo ai miei figli, poi mia figlia mette non è giusto, quello che gli davo tutti ai miei figli, li metto con il salvadanaio. Ti ripeto, così in questi fai 10 giorni che ci separano a Natale, almeno da 20 giorni a questa parte stai consegnando. Fai tu, moltiplica per quello che si può arrivare in un giorno che secondo me superano i 100 euro moltiplicato 20. Guarda che sono dei giorni che non sono manco 5 lire, non è che sia sempre rose. Ci sono i giorni che te li danno, ci sono i giorni che non te li danno, non è che tutti i giorni siano così per fare un conto. Per dire, io una volta ho caricato la macchina dei francesi, stavano caricandosi la macchina, avevano fatto due carri di spesa, sono andato a dargli una mano. Stavo mettendo la mano, sì, grazie. Ho dato la mano a caricare. Che cosa ho fatto? Cioè, ho aiutato a caricare la macchina, niente si può dire, dove ho fatto che hanno messo in mano? Lui come ci scrive? 50.000 lire. Ci dico, sono rimasto secco, no, ma è troppo, no, ma... E allora insistendo, no, che qua e là, boom. E me le sono tenute. Cioè sono rimasto così. Un'altra volta mi sono andato a dare una mano a questo tipo, ho detto, l'ho visto in difficoltà, ho detto, vuole una mano, cazzo mi giro e devo sentire il braccio. Quella è bella. Quella è una bella giocata. No, ma 50.000 lire vuol dire che non c'era ancora l'euro, non è che non hanno capito bene il valore della moneta e hanno da pensare date 5.000 lire. Ma non penso. Penso che l'abbiano capito, che erano proprio generosi loro. Ma che c'è gente che è generosa ancora, non credere che siano tutti vecchi. Ci sono quelli che praticamente... Ci sono quelli che ogni volta che faccio la consegna mi danno 5 euro. Ci sono persone che arrivi in mansarda con la lingua che te ne sta scendendo e cosa, ti vedono sulla pronti a fare un bicchiere d'acqua e ti dicono manco grazie. Non è, dipende dal cliente che trovi. È chiaro, guarda, al pari di una mancia troppo bassa, una mancia troppo alta ottiene quasi lo stesso effetto, nel senso che ci rimane un po' male. Capito, perché non dico che sia offensiva, però ci rimane male, poi alla fine ti inaffutti e ti riprendi, però comunque come hai detto bene ci sei rimasto male un po'. Sì, male, mi sono meravigliato più che altro, cioè non me l'aspettavo, ecco, quello lì sì, mi sono meravigliato che esista ancora gente così. Sì, erano 50.000 lire perché era in via Sacchi ancora, il tourist non era ai granai, me lo ricorderò sempre, anche il punto me lo ricordo, figurati quanto mi è rimasto impresso. E invece un'altra volta mio collega, quando c'erano ancora le lire, questa signora gli ha dato 200 lire e c'era il bambino piccolo, questo mio collega si è girato, ha preso le 200 lire, ha dato al bambino e ha detto vai a comprarti le caramelle, bello bello. Bene. Ma tu lo sai ad esempio in America quando prende una cameriera? Niente. Le cameriere nei locali non prendono niente, zero. Vivono dalle mance dei clienti, perché non per obbligo ma per usanza devono lasciare il 10% di quello che hanno consumato alla cameriera. Capito? Si usa. Quindi un locale può avere anche 20 cameriere, intanto non le paga. Chiaramente non ci vanno le cameriere stesse lì perché se sono in troppe poi alla fine se lo devono dividere a fine giornata. Però loro guadagnano esclusivamente dalle mance, non vengono pagati assolutamente. È strano. E se trova gente secca che non gli dà i soldi? E se trova gente magari non c'è lavoro, c'è poco lavoro, ci rimettono anche loro, oltre che principali. No, ma ci fai brutta figura se non lo fai, perché per loro è un'usanza quasi, non dico un obbligo, perché non è un obbligo, tu puoi uscire senza lasciarglielo, però assolutamente è usanza che si paghi la cameriera a parte, cioè se la paga il cliente alla fine. Farò, che cosa strana. Vabbè, comunque, anche qua c'è la bottiglia nei bar, una bottiglia con la menta verde che cosa sia, dove mettono tutti le monete. Ma però lì lo paga il principale, quello è una cosa in più. Però se c'è in America funziona così e infatti cosa succede? Ti assicuri quantomeno che siano gentili. Beh certo. Salvo, è buono. Secondo chi trovi ti lascia una buona marcia. Assolutamente, soprattutto se è una compagnia di più persone. Ma che poi succede questo, non è che tu ci rimetti tu cliente, perché chiaramente non te lo caricano sul servizio come fanno qua, capito? Che ti fanno pagare. pagare tipo il coperto, ti fanno pagare altre cose che poi serve poi alla fine per pagare il servizio stesso, cioè quello che loro poi pagano alla, al cameriere. Vabbè, certo, è così. E a proposito di cose, di soldi, tu il gioco della cravatta nei matrimoni lo ammetti? No, non lo ammetto per la semplice, per il semplice fatto che innanzitutto, a parte che ti ripeto, avendone cantato i matrimoni parecchi, io non solo ho visto i giochi della cravatta, ma ho visto anche il gioco della scarpetta, se per quello. Tu lo conosci quello della scarpetta? No, raga. Io ho visto la donna che si prendeva le giarrettiere, quello sì. Guarda, però diciamo che c'è quello della scarpetta, che è un po' fetish, un po' una porcheria. In breve, per bere dalla scarpa della sposa si paga un obolo, al pari della cravatta, no? Si prendono la cravatta della sposa e la tagliano a stretta, però tu ti metti nella condizione di far sì che le persone, innanzitutto di fronte a tutti, persone che non ti hanno sicuramente fatto un regalo, si mettono nella condizione di togliersi il portafoglio, estrarre un obolo che tutti vedono, quindi passi a seconda per taccagna, pubblicamente passi per taccagna o per persona, come si può dire, generosa, e non è carino, non è carino per tutta una serie di motivi. Uno per questo, perché comunque alla fine la gara ti mette di più, quindi è una, quasi una bastardata, dico. E dopodiché perché stai già togliendo soldi a persone che hanno già comunque contribuito alla causa, non lo vedo una cosa carina. No, e poi ci sono quelli che magari non possono disporre più di tanto, se mettono poco li fanno tutti girati, dai, metti, buone ancora, allora io sai cosa ho fatto a un matrimonio? Ho preso, eravamo un gruppetto di persone, abbiamo messo un tanto a testa, abbiamo fatto una specie di rotolo con i soldi e li abbiamo infilato dentro, così se l'hanno presa nell'occhio. No, ma comunque non è carino, anche perché al pari, come dici tu, io ne ho visto lo stesso di Buono, nel senso diciamo e poi a seconda di quanto mettevi ti davano un pezzo più o meno grande di cravatta, capito? Poi questa cravatta che non finisce mai, perché più di una volta ne comprano una uguale e lo fanno apposta, capisci? Ne sono due. Vabbè. Io mi ricordo che al mio matrimonio io non avevo detto niente, l'avevano fatto, però un po' mi aveva irritato, dico la verità, non volevo rovinare la festa, la cosa, mi si è considerato che me l'hanno fatto degli amici e mi aveva fastidio anche dirglielo. E avevo fatto 350 euro, me lo ricordo ancora. Sì, assolutamente, ma io ti dico una cosa. Dopodomani ho un matrimonio con 250 invitati. Quello che cercavo di far capire agli sposi era questo, se, perché poi abbiamo fatto una serie di calcoli, se una famiglia come ad esempio la tua vuole fare un bel regalo agli sposi, che magari non sono neanche parenti stretti, quindi tu gli fai un regalo magari da 100 euro, 150 euro, vai là di stanotte, magari gli prendi un piatto d'argento, 200 euro al massimo, giusto, se non sono persone strette, cioè persone che ti hanno invitato, però non sono parenti stretti. E in queste 250 persone che lo hanno invitato, chissà quanti ce ne sono. Ora, se gli vuoi fare un bel regalo, sai cosa devi fare? Soldi. Negativo, non devi andare alla matrimonio. Perché se consideri quanto stanno chiedendo adesso per il pranzo o la cena di notte, è uno sproposito, sono 75 euro a testa. Ora moltiplica una famiglia come la tua per 4, 75 per 4 sono 74 euro, sono 600 euro, no scusami, 300 euro, che tu magari non gli faresti mai di regalo, capito? Lo so, ma questi calcoli qui non è che si faccia. Tu inviti perché ti fa piacere invitare, poi io mi ricordo che al mio matrimonio avevo pagato 120 euro a persona, 120 mila lire a persona. Ma infatti io non ti sto dicendo a tu sposo, sto dicendo tu persona che vieni invitata, vuoi fare un regalo, non ci andare. Il regalo migliore, perché a seconda della famiglia che hai, ti ripeto, sono 4 persone, 300 euro. Siccome 300 euro se non è una persona stretta, non gli fai questo regalo, perché non glielo fai. Se vai al matrimonio di una persona che ti ha invitato così, massimo gli regali 200 euro, gli regali magari una quota magari della lista notte, soprattutto in questo periodo. A parte che io non sono per il matrimonio, non sono per quel tipo di matrimonio visto come una festa dove si invitano 250 persone, io sarei per invitare 50 persone, quindi parenti molto stretti, e dopodiché al limite fare una festa alla sera con più persone, quindi affitti una sala, fai un buffet freddo in piedi e lo festeggi, e gli amici li chiami in quell'occasione lì. C'è doppia spesa, Cartarola, Burundù, e ho detto c'è il sud, non so tutti che lo possono fare, no. Io ho fatto il matrimonio, ho fatto il ricevimento e dopo il ricevimento si ballava e si faceva, abbiamo fatto giochi, la sposa ha fatto il gioco del buffet, insomma un intrattenimento, c'era quello che raccontava le barzellette, il fotografo stesso, poi insomma c'era abbastanza movimentazione là. Poi l'unica cosa che un po' mi ha dato fastidio è che alle 9 ci ha detto che doveva fare pizzeria, che doveva mandare via entro le 9 perché se no doveva fare pizzeria e non poteva farla, capito? Fatto tutto per dire, il coso, l'onere di fare un matrimonio, l'impegno di fare un matrimonio e poi il caso si dice che alle 9 deve fare pizzeria, ma non ci ha callato. Non sono d'accordo, per quello che hai detto tu. Io appunto facevo il calcolo di quello che i soldi non ce li ha, perché se tu inviti 250 persone a 75 euro ogni persona, sono esattamente 18.000 o 19.000 euro circa. Ora se tu inviti 50 persone che sono i parenti stretti, te ne esci con, sarebbero 3.500 euro, dopodiché con un 1.000 o 2.000 euro affitti la sala. Sono altri 1.000 euro, affitti una sala per una sera, con altri 2.000 euro fai un buffet per le riempi delle stesse persone che sarebbero venute alla cena o al pranzo e cresci con 6.000-7.000 euro. Ora, tra 6.000-7.000 euro e 18.000 euro c'è una grossa differenza, quindi come vedi io sarebbe il risparmio. Insomma, a molta gente farebbe piacere vederti sposare, eccetera, eccetera, stare in compagnia in allegria e cose, e se lo fai la sera già la festa è finita, a parte che uno, per esperienza lo so, dopo che si sposa, che fa il ricevimento, non ha voglia più di fare un cavolo, perché tutto il periodo prima del matrimonio, con l'organizzazione, con questo, con l'altro, e poi la stanchezza della sera o della mattina, dipende da quello che ti sposi, del ricevimento, di guardare se tutto va bene, tutto, e ha voglia di fare poi un ricevimento la sera con gli amici, manco baricato. Un attimo che c'ho proprio una chiamata della sposa, un attimo. Hai pensato, ti sta chiedendo aiuto, come ha fatto come un amico? Aiutato, aspetta un attimo. Beh, c'erano i due.